Ciao da Mala Radio, oggi sarà una puntata speciale. Sarà trasmessa da un posto particolare dove io in teoria non potrei trasmettere, me ne sarebbe proibito, però lo farò lo stesso. Mi trovo in un reparto psichiatrico dove comunque ci tengo che questi muri possano essere visti come invisibili e permettere un dialogo tra dentro e fuori. Sarà quindi presente anche una rubrica che chiamerò Nono Piano. Sarà una puntata probabilmente un po' lunga, spero che avrete voglia di ascoltarla fino alla fine oppure a pezzi. Secondo me può essere un contributo importante per tutti e tutte, perché molti di noi soffrono di problemi con il nostro mondo interiore e non possiamo più nasconderlo e dobbiamo affrontarlo. Però io quello che posso fare è raccontarvi un pochino della mia esperienza. Quello che vi racconterò oggi non è sicuramente completo, può essere che farò una seconda parte. Buon ascolto intanto per il caso di Crescenzago. Inizialmente, per partire dal rilancio del fuori, ascolteremo ciò che è successo negli ultimi giorni a Crescenzago, dato che sono cominciati i lavori di costruzione che interessano la zona e ce lo faremo spiegare da chi lì sta provando a resistere. L'11 dicembre ci sarà un corteo anche contro la cementificazione. Vi lascio all'ascolto delle loro dirette parole. A Milano si sta costruendo un altro palazzo. Questa notizia non sembra essere una notizia, visto che succede da sempre e sempre più spesso e in tutti i quartieri di Milano. Se non che questa volta, come anche in altre, c'è un gruppo di abitanti che si sta mobilitando contro l'ennesima costruzione di questa colata di cemento. Dove siamo? Siamo a Crescenzago, precisamente proprio partendo da Loreto in fondo a via Padova verso Cascina Gobba, c'è questa piazzetta e Piazza Costantino, da via Padova si gira a sinistra in via Adriano e alla propria sinistra si trovava questo spazio abbandonato, recintato da delle mura e dentro abbandonato verde e si stava cercando di capire se il comune, come promise 40 anni fa, quest'area potesse diventare invece che privata a uso pubblico e verde. Ovviamente così non è andata, hanno da poco, qualche settimana fa, quest'area è stata recintata a cantiere, della cooperativa Uniabita, aderente a Lega Coop, dove vogliono costruire questo palazzo che si chiama Lumiere, un palazzo di lusso. Potete anche vederlo sul sito. E mercoledì 1 dicembre sono iniziati gli scavi e hanno abbattuto queste mura. Abbiamo deciso di andare a intervistare una persona che è molto attiva in questa lotta da anni, in questa lotta in queste lotte per prendersi cura di questa zona del quartiere, come in realtà anche un po' di tutta via Padova. Perché per raccontare come sia importante una lotta che parti dal prendersi cura del quartiere, ma anche per informare chi ci ascolta che sabato 11 dicembre ci sarà un corteo alle 2:30 che parte da Piazza Costantino, in quella zona lì appunto, per denunciare. Questa costruzione, ma come anche altre in quella zona già densamente abitata e densamente trafficata, molto trafficata, ma anche per proporre, sarà un corteo di denunce, di protesta, ma anche di proposta. Quindi ci vediamo, per chi è interessato, sabato alle 2:30, come ci hanno invitato e ci invitano anche, ci invita la persona che abbiamo intervistato e anche i gruppi di abitanti del quartiere che insieme a questa persona stanno portando avanti questa battaglia. Per qualsiasi informazione, per raccontarci quello che succede in città, e noi possiamo pubblicarlo nel nostro blog che è malaradio.noblogs.org, potete scriverci una mail a malaradio@autistici.org oppure scriverci su Telegram per messaggi di SMS al 351 91 82 889. Ripeto più lentamente, 351 91 82 889. A risentirci, buon ascolto. Ciao a tutte e tutti che state ascoltando Mala Radio, siamo qui con il presidente dell'ANPI Crescenzago, Giuseppe Natale, che ci racconta un po' come è stata la mattina del 1º dicembre qua a Crescenzago. Sì, con sorpresa devo dire, me l'aspettavo che avrebbero cominciato i lavori per costruire l'area Meucci, però sinceramente non mi aspettavo che avrebbero distrutto un muro di cinta che ha un valore storico vicino a Martesana a 20 metri. Quando ho visto quello scempio sono andato personalmente a definirli dei barbari, siete barbari a distruggere un patrimonio del quartiere, della storia della nostra città praticamente. Comunque noi ci opporremo, continueremo a lottare. Siamo convinti di essere non solo nel giusto, ma Milano non ha più bisogno di cemento. Ci sono migliaia, forse circa 100.000 addirittura vani vuoti in questa città e continuano a costruire. Il cemento ovviamente danneggia la città, danneggia la salute delle persone, fa precipitare e aumentare anche il clima, la temperatura, il disastro è prossimo e le città, in modo particolare le grandi città come Milano, saranno coinvolte dal riscaldamento globale del clima e saremo. Siamo in pericolo, ecco, quindi la nostra battaglia ha anche questo valore generale. Esatto, perché in pratica quello che sta succedendo è che stanno costruendo, vogliono costruire in una zona di Crescenzago abbandonata, o meglio dire che era abbandonata, ma per cui era previsto, o meglio ancora dire, era promesso dal comune da anni ormai che sarebbe stata destinata a uso verde e pubblico soprattutto. In realtà invece questa zona è rimasta privata e vogliono costruirci un palazzo, giusto? E mi pare anche un palazzo di lusso. C'è due ali di un unico palazzo di 4 e di 5 piani in un'area che è un fazzoletto, l'ultimo fazzoletto rimasto libero nel centro storico di Crescenzago, e questo fazzoletto di suolo era destinato a verde, pur essendo di proprietà privata. Il piano regolatore del 1980 era destinato a verde, e poi anche ci fu un progetto serio finanziato dallo stesso comune nel 2000. Per cui si poteva e si doveva fare una piazza nel verde in quell'area, perché Piazza Costantino, dove c'è la sede dell'ANPI, c'è il palazzo ex comune di Crescenzago, è un nodo stradale, perché è l'unica strada che abbiamo di ingresso e di uscita dal quartiere e nel quartiere. Quindi è veramente una truffa, una beffa, nonostante anche delibere del Consiglio di zona che hanno sempre deliberato nel senso del verde della piazza, migliaia di firme dei cittadini, proteste. Dopo 40 anni dal 1980 arriva la concessione a Uniabita, una società cooperativa edilizia aderente a Lega Coop, quindi veramente comincio a pensare che c'è anche un affare poco pulito rispetto alla concessione stessa di costruire. Noi ci opporremo con tutti i mezzi, faremo la manifestazione sabato 11 a partire dalle ore 14:30, stiamo raccogliendo le firme, gli abitanti adesso non ne possono veramente più perché è veramente troppo troppo È vergognoso. Noi lo chiamiamo il cantiere della vergogna. Quindi questo cantiere della vergogna deve essere fermato. Ed è un'iniziativa, una storia emblematica che riguarda l'intera città di Milano. Questa città è tra le più cementificate al mondo, la nostra città. Lo dicono i dati ISPRA, cioè l'Istituto Superiore della Protezione Ambientale della Repubblica Italiana, no? Non l'ultimo, cioè, gli studi ufficiali. Quindi bisogna fermare questi amministratori, questi sindaci che nell'arco di un cinquantennio hanno continuato a deturpare, a impermeabilizzare il suolo. Noi rischieremo alluvioni, inondazioni e appena c'è un po' d'acqua, Milano, le strade di Milano diventano dei fiumi e sarà ancora peggio se continuano così. Quindi la nostra battaglia ha questo valore anche generale di civiltà. Va bene. Esatto, sì, grazie. Un'ultima cosa, perché sappiamo che questo è veramente l'ennesimo cantiere in un'area densamente abitata e super trafficata. Per chi non ha presente, è una delle entrate nella città di Milano da parte della provincia del Nord-Est, e veramente la quantità di macchine che passano e anche la densità abitativa è molto molto alta. Quindi questo cantiere è veramente un di più non sano e non voluto da chi ci vive in questo quartiere, ma anche non è l'unico. Nel senso che il nostro quartiere è invaso da una cementificazione enorme. C'è a pochi passi da noi, in via Adriano, ai confini con Sesto San Giovanni, nell'ex area Marelli, Magneti Marelli, un piano urbanistico che è ormai quasi terminato, che è eccessivo, senza servizi. Basti pensare che il nostro quartiere aspettava una scuola media da 20 anni, è arrivata soltanto nei mesi scorsi, hanno finito di costruirla e di aprirla, per dire. Mentre l'amministrazione ha concesso in comodato gratuito uno stabile che doveva essere scuola media 20 anni fa alla Casa della Carità, in concessione gratuita. Quindi il quartiere è stato penalizzato nel nome, La in un certo modo di fare la religione, secondo me un po' nel modo dell'oppio dei popoli, come diceva Marx, a mio avviso, con tutto rispetto per chi crede, la religione è un altro, è un elemento essenziale dell'umanità e dell'uomo probabilmente, ma non è così che si fa, si è cristiani, ecco. Hanno scippato la scuola media per fare la Casa della Carità. Gli abitanti hanno aspettato per 20 anni e non hanno avuto una scuola. Mancano altri servizi, la biblioteca. E noi, per esempio, ci siamo costituiti in 8 associazioni, ANPI, Legambiente, Banda Musicale ed altre 5 associazioni. Stiamo usando la sede del palazzo che era il vecchio antico autonomo comune di Crescenzago in piazza Costantino, l'abbiamo trasformato in casa Crescenzago a disposizione dei cittadini, degli abitanti, e stiamo creando servizi culturali fondamentalmente, perché abbiamo bisogno di conoscere la realtà vera, di prendere coscienza del nostro ruolo di persone, di cittadini e non di sudditi. E abbiamo bisogno di salvaguardare soprattutto la nostra salute, che viene messa in discussione da un inquinamento micidiale dovuto al traffico, all'unica strada di ingresso e di uscita nel quartiere, a inceneritori che vogliono ripristinare addirittura un inceneritore migliore rispetto a quello precedente, a 4 passi di qua. C'è una fabbrica che abbiamo tentato di allontanare e delocalizzare, ma non siamo riusciti, che tra gli effetti nocivi anche malattie gravi da cancro. Si chiama questa fabbrica la Fiamma Abrasivi. Sarà una delle tappe del nostro corteo del prossimo 11, sabato 11 dicembre, che partirà da Piazza Costantino. Grazie, quindi direi dopo questa testimonianza che secondo, cioè, che è molto interessante. Ci vediamo tutte e tutti sabato 11 dicembre alle 2:30 in Piazza Costantino per manifestare contro questa cementificazione massiccia, eccessiva, che va a discapito degli abitanti di questa zona, che non la vogliono per il profitto di pochi, in questo caso di Unihabita. E niente, poi ci verranno raccontate tutte le lotte e le storie di questo quartiere, che sono non per caso anche molto simili alle lotte e le storie di altri quartieri della città di Milano. Niente, quindi ci vediamo sabato alle 2:30 in Piazza Costantino a Crescenzago. Mi trovo in questo reparto da ormai quasi 2 settimane per aver tentato il suicidio. Questo mi ha dato la possibilità di vedere cosa ha portato il fallimento del mio suicidio. E devo dire che è stata un'esperienza interessante e ne è valsa la pena. Era solamente una via di fuga, la più semplice che mi sembrava di avere. Ora vi racconto ciò che è venuto dopo. Subito, conoscendo gli altri pazienti, mi rendo conto che tutti soffriamo delle stesse dinamiche che ci sono fuori. Giorno 1. Una mia amica paziente si agita e si incazza. Viene da me e mi dice: guarda cosa hanno fatto a questo mio amico. Striscia la notizia, ha fatto un servizio sulla droga a Rozzano, riprendendo il volto del suo amico, che sotto pagamento probabilmente li ha portati in giro nei luoghi della droga a far vedere come funziona, nonostante non fosse neanche uno spaccino. Ora questa persona si trova rinchiusa in casa, serrata, nella paura che la polizia da un lato gli bussi la porta per chiedergli i nomi o dall'altro che qualcun altro bussi alla sua porta per fargliela pagare. Grazie a Striscia la Notizia e ai vostri servizi, che sono solamente strisce di merda che lasciate sulla testa della gente. Ci troviamo in una piccola, davvero piccola bollicina di vetro e cemento, chiusa a chiave. Qui si incrociano persone con delle storie non diverse da quelle che si incrociano nel tran tran generale delle situazioni che troviamo fuori, situazioni che ci asfaltano per la loro violenza e crudezza. Qui è possibile, tramite una specie di slow motion, assistere ed ascoltare meglio da chi ha voglia di aprirsi, anche solo in parte. Ripeto, le situazioni non sono diverse da fuori, solo che qui si è colpevoli di aver infranto le regole di contenimento che possono essere tollerate fuori, e qui mi sento di introdurre il primo significato di nono piano. Sapete che sono una linguista. Nono piano vuol dire contenimento, ma per fortuna anche condivisione, si intende ovviamente tra i pazienti. Chi ha voglia di aprirsi e si sente di aprirsi. Nell'aula fumatori c'è una bellissima vista che ha uno spaccato di Milano dall'alto, orrendo, e al contempo affascinante, perché ovviamente è il mondo che adesso noi non possiamo raggiungere. In alcuni giorni si vedono le montagne, uno spaccato bello da osservare, ma difficile da cambiare e da raggiungere. Rivolgi il tuo sguardo allora verso l'interno. Uff, quello che succede dentro di te i primi giorni è terribile, non lo puoi cogliere. È talmente pesante che veramente è solo una nuvola nera. Ma ti giri e ci sono altre persone come te, per motivi diversi, obbligati o no. Si trovano anche loro in una sorta di scialuppa di salvataggio. O chi invece si sente più come me, si trova in un traghetto. Lo dico perché l'atmosfera e i rumori si assomigliano veramente proprio a quelli di un traghetto. Un traghetto che è una specie di purgatorio, limbo, tra la vita esterna e passata e il futuro incerto. Chi si trova qui per motivi diversi, chi si trova qui per scappare da un'altra struttura, con regole e trattamenti assurdi in cui si trovava a scontare la propria pena, insopportabile, e che quindi decide di protestare con l'autolesionismo, per farsi tagliandosi le braccia e per farsi trasferire. Chi non ha altra scelta che il manicomio, perché fuori la società non è per tutti possibile da vivere. Forti si vedono gli impatti del Covid sulla fragilità delle persone o sulla difficoltà di scoprire e gestire una forza che non si pensava di avere per reagire alla situazione. Un evento devastante che le nostre generazioni in questa parte del mondo non avevano ancora mai visto e vissuto sulla propria pelle. Molti percepiscono il pericolo per l'umanità e alcuni si sentono di dover salvare ognuno con le sue strategie. Chi pensa di farlo rafforzando il proprio credo in un qualche Dio e vede la necessità di un profeta, che poi magari potrebbe essere proprio lui, chi trova la via della lotta per la prima volta nella sua vita, e questa via ce la facciamo raccontare da Gaetana. Il nome è un'allusione non casuale, di cui lei e io andavamo molto, molto orgogliose. Vi lascio alle sue parole. Siamo avvicinati, quindi ci siamo contati e abbiamo capito che siamo tanti e che non siamo quattro gatti come si vogliono descrivere le telegiornali, le televisioni, il mainstream. Quindi già abbiamo dato un torto al mainstream, facendogli capire che la narrazione ufficiale non regge, e più li mettiamo davanti alle loro contraddizioni e più li facciamo vedere come non regge. Perché non regge? Perché non regge perché siamo dei truffatori. Dei truffatori come era la truffatrice della Marchi quando truffava quei tarocchi. Perché tu non mi puoi dire giugno scorso, quando raggiungeremo il 70% di vaccinati con due dosi, toglieremo tutte le restrizioni, e poi si è raggiunto l'80-90% e non hai tolto nessuna restrizione, ma se l'hai aumentata e stai pensando ancora a come aumentare il Green Pass e a come aumentare altre restrizioni. Evidentemente la tua intenzione fin dall'inizio non era quella di diminuire le restrizioni. La mia intenzione fino all'inizio era soltanto truffare le persone per spingersi a vaccinarsi con l'idea che sarebbero vaccinate perché avevano la tua promessa che gli avessi dato le restrizioni, e quindi con quella promessa si vaccinavano, e poi invece non gliela toglievi. Era questa fino all'inizio. E poi quando le promesse fasulle non sono più bastate, si è passati ai ricatti. Ai ricatti e alle estorsioni. Perché dire a una persona che se tu non ti vaccini non lavori è un'estorsione, chiaramente, come un datore di lavoro che dice alla sua impiegata dipendente: se tu non fai sesso con me, tu non lavori. È la stessa cosa. Cioè, è la stessa cosa se dire tu se non ti fai il Green Pass. Se tu non ti fai il vaccino, se tu non ti fai il Green Pass, non lavori. È uguale, è come dire: se tu non ti spogli, non cedi a questa mia richiesta illecita, che è una richiesta illecita perché non vaccinarsi è una scelta legittima ed è la libertà di scelta, e comunque va difesa la libertà di scelta, assolutamente, soprattutto perché era un vecchio slogan tipico delle sinistre di un tempo: il corpo è mio, decido io. Se il corpo è mio, decido io, anche sul braccio decido io, perché anche il braccio è parte del corpo. Mm-hmm. E questa è una questione di diritto, di principio, che non dipende da aspetti collaterali o altro. Anche i vaccini fossero la cosa più sicura del mondo, e non lo sono, perché comunque sì, ci sono stati dei casi di effetti avversi che si sono verificati, ma anche se fossero sicuri, comunque il Green Pass sarebbe sbagliato lo stesso. Perché sul corpo mio decido io, perché anche la cosa più sicura del mondo io posso, per ragioni mie personali, etiche, morali, non volermi inserire, non volermi inoculare, e tu Stato non puoi costringermi, perché il braccio fa parte del mio corpo e il corpo è una sfera di determinazione individuale, di autodeterminazione individuale sul proprio corpo, che lo Stato non può intromettersi. Esatto. E tu com'è che ti sei avvicinata a queste manifestazioni no Green Pass? Perché Tu ti sei vaccinata, hai detto, hai sentita all'inizio di cedere al ricatto, all'inizio ci credevi? All'inizio non era proprio un ricatto perché non c'era ancora il lascia passare. Francamente in parte credevo che, come diceva Speranza, se raggiungevamo il 70% avrebbero tolto le restrizioni. Pensavo che vaccinarmi mi avrebbe spinto ad avere un inverno più sereno, poi si è visto, già parlano ancora adesso di salvare il Natale, scusa, siamo come l'anno scorso di questi tempi facevano i provvedimenti per salvare il Natale, ma di questi tempi fanno i provvedimenti per salvare il Natale, con una percentuale dei vaccinati molto superiore, evidentemente questi vaccini tanto efficaci non hanno dimostrato che di raggiungere i risultati che si aspettava che potessero ottenere. Io, pensando che avrebbero ottenuto determinati risultati, mi ero vaccinata con l'idea che effettivamente avremmo passato un inverno senza restrizioni, perché non avevano più la scusa della mancanza dei vaccini, mentre l'anno prima c'era la scusa che mancavano i vaccini e quindi c'erano delle restrizioni per quello, anche se io pure all'epoca ci credevo poco, che credevo che il metodo emergenzialistico fosse in realtà un metodo autoritario di governo, e cioè servisse per governare in maniera tecnocratica, cioè in maniera scientista, cioè governando, delegando il governo alla scienza e non più alla politica. È la politica che deve governare, non la scienza. La politica non può delegare il sistema di governo e le scelte governative alla scienza in toto, perché la scienza non è mai univoca, comunque su certe interpretazioni, non esistono dati, esistono solo interpretazioni, e spetta a passare alla politica interpretarli. Quindi dire che bisogna governare in base alle evidenze scientifiche, come è stato fatto nel patto per la scienza del 2018, che bisogna andarlo a rivedere perché fu firmato anche dall'Italia, e come è stato fatto, questo è sbagliato. È sbagliato in primis perché bisogna ridare spazio alla politica, bisogna ridare spazio alle scelte politiche in toto, cosa che non è stata fatta in questi due anni in cui la politica ha delegato in tutto le scelte al mondo scientifico. Detto ciò, io comunque pensavo che all'epoca c'era questa scusa, quindi è vero che loro volevano utilizzare il metodo dell'emergenza come metodo di governo, ma avevano quantomeno la scusa per fare ciò del fatto che non c'erano ancora i vaccini. Dicevo, intanto quando nel momento che escono i vaccini ho pensato, intanto vacciniamoci, così non avranno più la scusa che non si fanno i vaccini. Ormai ci saremmo vaccinati per il 70%, e il 70% è più quello considererebbe una buona percentuale. Speranza stesso la primavera scorsa, a marzo, ad aprile scorso, diceva dobbiamo raggiungere il 70%, quindi era considerata all'epoca una buona percentuale, per carità, non era una percentuale di tutto rispetto. E io pensavo, raggiungiamo il 70% e ci lasciano in pace. In qualche modo io volevo tornare al 2019, perché è vero che il 2019, dicono alcuni, era un mondo malato pure quello. Per carità, non era un mondo perfetto neanche all'epoca, sappiamo che i giustizi erano anche all'epoca, e io che ora sto avvicinandomi alle varie battaglie che ci sono, sto scoprendo che tante persone che partecipano a queste battaglie facevano altre battaglie anche prima, perché c'erano altre cose per cui battagliare. Io all'epoca invece vivevo in un mondo pseudo felice, perché non mi ero ancora resa conto, non avevo ancora preso piena consapevolezza, per cui per me nel 2019 era un mondo libero. In realtà neanche nel 2019 era un mondo libero, magari per noi della classe medio-alta, ma non era un mondo libero per tante altre persone, quindi era un mondo che comunque andava cambiato sì, ma in questo modo. Il primo passo, quindi, per me il primo passo deve essere sempre il ritorno alla normalità. Il primo passo e il primo punto su cui dobbiamo puntare deve essere sempre il ritorno al 2019, dopodiché è ovvio che il 2019 va cambiato perché abbiamo scoperto in questi due anni che anche il 2019 aveva i suoi difetti, anche il 2019 era un mondo malato, quindi anche quello andrà cambiato, però intanto torniamoci, intanto pensiamo di tornare al punto di partenza per poi cambiare e migliorare quel punto di partenza. E quindi tutte queste cose ti hanno spinto a un certo punto, nonostante tu avessi il tuo lasciapassare per andare a lavorare, a dire adesso scendo anche in piazza. Sì, io fin dal momento stesso dell'introduzione di lasciapassare. Perché? Perché il termine lasciapassare, anche se detto in inglese fa più chic, green pass, sembra un termine chic perché lo dice all'inglese, in realtà richiama molto lascia passare. Lascia passare, l'ultima volta che l'Italia l'ha utilizzato è stato nel 43-44, sotto l'epoca fascista. Serviva per spostarsi da un territorio all'altro, per spostarsi tra la Repubblica di Salò e il resto d'Italia occupato dagli americani. Serviva anche per andare al lavoro, all'epoca c'era pure la tessera del pane, anche lo stesso lascia passare per andare al lavoro richiama la tessera del pane di epoca fascista che fu introdotta nel 1927 per agevolare gli uffici di collocamento, perché all'epoca per entrare negli uffici di collocamento dovevi essere iscritto al PNF, al Partito Nazionale Fascista. Successivamente questa tessera negli anni 30, non ricordo esattamente l'anno, fu estesa agli uffici pubblici, quindi nel 1937, mi sembra 37, però se non mi ricordo bene l'anno non lo dire, quindi per tu avere un impiego pubblico dovevi essere iscritto sempre al PNAS, al Partito Nazionale Fascista, e dovevi avere una tessera. Questa tessera, la tessera fascista, ricorda il Green Pass, ricorda il lasciapassare verde, ricorda la tessera verde, tessera fascista. E la similitudine è fin troppo evidente. L'anno successivo questo sarà il lavoro privato. Nel frattempo vi furono le leggi razziali, che pure lì emarginarono una parte consistente di popolazione, consistente, in realtà era una minoranza, però come ho sempre creduto io, la democrazia non è il governo della maggioranza che schiaccia la minoranza, la democrazia è il governo della maggioranza, sì, che governa perché è maggioranza, ma che rispetta la minoranza. Le minoranze vanno comunque sempre rispettate. Perché se la democrazia fosse dittatura della maggioranza, che governa la maggioranza e basta, allora potevamo fare un referendum pure sulle leggi razziali, e a quel punto lo vincevano i tedeschi, perché la maggior parte era d'accordo con le leggi razziali, gli ebrei erano l'1% della popolazione, e siamo tutti fuori perché tanto la contavano l'1%, mentre quell'altro era il 99%. Poi di fatto la democrazia rappresentativa invece funziona esattamente come stai descrivendo tu, quindi non viene rispettata. Non viene rispettata la minoranza, è la democrazia, questo è un problema, perché in realtà le costituzioni erano state fatte, per quale motivo è stata fatta la Costituzione, anche se poi è stata calpestata? La Costituzione è stata fatta proprio perché la democrazia doveva contemperare la decisione della maggioranza, il fatto che in democrazia decide la maggioranza, con il rispetto della minoranza. E quindi è stata fatta la Costituzione. Sono stati fatti i diritti in Costituzione che sono stati chiamati inviolabili. I diritti inviolabili della Costituzione che nessuno dovrebbe mai violare. Però questi diritti inviolabili sono stati violati ad uno ad uno. Perché? Quindi, perché c'è lo stato d'emergenza. Nello stato d'emergenza qualsiasi cosa può venire violata. Quindi a quel punto anche la Costituzione stessa, non ha saputo tutelare adeguatamente i diritti delle minoranze, non ha saputo tutelare adeguatamente i diritti di nessuno, perché tutti i diritti sono stati violati. Quando violi i diritti di qualcuno, viola i diritti di tutti in qualche modo, perché chi ti dice che il prossimo non sarai tu? Certo. Cioè, nel momento che tu togli il diritto alla persona X perché ha i capelli rossi, Chi ti dice che tra un mese diranno allora d'ora in poi non togliamo diritti alla persona X con i capelli rossi, ma a quelli che hanno gli occhiali. E quindi alla fine sei trovato tu che c'hai gli occhiali, per dire, ecco, togliere i diritti, nel momento mai vanno tolti i diritti a nessuno, perché nel momento che inizi a togliere i diritti a qualcuno, finirai sempre per essere tu il prossimo. Per questo dobbiamo lottare tutti insieme, dobbiamo lottare tutti insieme perché potremmo sempre essere noi i prossimi, sempre se non vogliamo arrivare al sistema del credito sociale latinese del quale saremo tutte vittime. Invece, come le hai viste tu queste manifestazioni? Tu hai partecipato dall'inizio? Io ho partecipato alle manifestazioni e ho visto aumentare la presenza con il passare del tempo fino a metà ottobre. Poi dopo, con l'aumento della repressione della polizia, ovviamente è diminuita anche la presenza perché le persone ovviamente hanno paura. È ovvio che le manifestazioni sono cambiate molto. All'inizio la gente andava in manifestazione con i bambini, con i passeggini, sembravano scampagnati domenicali, gente che cantava slogan, cose così. La polizia si ti scortava, però non era così presente come alla fine. Poi la presenza della polizia è andata mano a mano sempre ad aumentare. Poi la presenza della polizia, oltre ad aumentare, si è fatta anche in maniera più repressiva, più incattivita. Ha iniziato ad arrestare le persone a caso, prendendole così dal mucchio. Ha iniziato a chiudere le persone tra due vie, sequestrandole di fatto, impedendogli ogni via d'uscita, chiedendo i documenti a tutte le persone che erano presenti lì soltanto per il fatto di esercitare il diritto di manifestare, e chiedendo i documenti a tutti, identificandoli e facendo multe e facendo daspo, così a caso, proprio a caso, solo per il fatto di reprimere, di esercitare il loro diritto di repressione. È così che in qualche modo la manifestazione si sono un pochino più, non dico spente, ma sono diventate meno partecipate, perché ovviamente la parte che di persone che andava con la famiglia o che è padre di famiglia, madre di famiglia, ovviamente si è rimasta terrorizzata dal clima che stava creato nelle ultime tre o quattro settimane, l'ultimo mese, diciamo. E quindi dicevo appunto che si è venuta a creare un clima che non c'era mai visto in Italia, un tale clima di odio. Perché sì, c'era stato l'odio in passato per alcune categorie di persone, eccetera, ma un clima di odio così tanto, così tale, in Italia del dopoguerra effettivamente non c'è mai stato. Noi siamo stati abituati a vivere in un paese libero. Perché? Perché i nostri nonni hanno combattuto e ci hanno dato la libertà. I nostri nonni sono morti in montagna per darci la libertà. E noi, come ci riduciamo? Hanno scritto la Costituzione, i partigiani che avevano combattuto, poi sono stati costituenti che hanno scritto la Costituzione. E noi invece che ci ridiamo il diritto al lavoro, violiamo il diritto alla libertà di movimento, violiamo il diritto alla libertà di manifestazione, violiamo tutti i principi costituzionali fondamentali. Davvero viene ad essere una cosa indicibile, una follia surreale, come la chiama qualcuno, ma più che follia surreale, anche violiamo lo stesso articolo 3 della Costituzione che impone il principio di uguaglianza. Nel momento che dici tutti i cittadini sono uguali, indipendentemente da religione, da razza, da condizioni personali e sociali, aver fatto o meno un farmaco a una condizione personale, che comunque sia, viola l'articolo 3 della Costituzione, perché tu imponi una divisione, una discriminazione, una diversità di trattamento, un trattamento diverso. In base a cosa? In base all'aver fatto o meno un vaccino? Cioè in base ad una condizione personale della persona? A una condizione personale della persona in base alla quale tu non puoi discriminare effettivamente, trattare quella persona come se fosse un ebreo ai tempi del nazismo, appunto. E secondo te come possiamo fare a continuare a lottare per questo? Come continuare a lottare è fondamentale, come? Non lo so, è un po' difficile come domanda perché Le manifestazioni, come ho detto, io ho partecipato a molte manifestazioni, non a tutte perché una l'ho saltata. La primissima ero ancora in vacanza, poi ho iniziato a partecipare a tutte, poi ho saltato le ultime due che sono state a Male ed una in cui ero andata a Torino. La manifestazione in Torino mi è sembrata più organizzata perché comunque c'era un palco, c'erano degli interventi, c'era una sorta di coordinamento generalizzato, insomma c'era una linea politica da seguire in qualche modo, a differenza di quella di Milano che è sempre stato il solito corteo spontaneo, quindi che poi c'è anche il corteo spontaneo, ogni manifestazione è utile, ognuna ha la sua anima, ognuna ha la sua Anche perché quello caratteristica. ha impedito ai fascisti, anche come a Roma, per esempio, di imporsi Sì, sul resto. ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha le sue, come si dice, sì, nel senso i suoi caratteri fondamentali, perché se vai alla manifestazione di Torino, a quella di Bologna, a quella di Massa, eccetera, ognuno è organizzata da una situazione diversa e quindi magari hanno una determinata collocazione, con determinati caratteri, con una determinata organizzazione. Milano, che è sempre stato il corteo spontaneo, che è sempre stato molto eterogeneo, perché non ha mai avuto una caratterizzazione né di destra né di sinistra. Perché fondamentalmente ci sta senza persone di sinistra e probabilmente nelle manifestazioni l'anima maggiore è quella di sinistra e che ne dicono le televisioni, perché le televisioni possono dire quello che vogliono sul fatto che sono tutti fascisti e cose simili, ma sappiamo benissimo che non è vero, anzi la lotta per la libertà è una lotta che viene soprattutto da sinistra, secondo me, almeno via come ho fatto io. No, ovviamente non parlo della sinistra ufficiale, parlo della sinistra alternativa, quindi sinistra anarco-socialista, oppure ex persone che sostenevano i 5 Stelle e che sono rimaste deluse. Non dimentichiamo che molti hanno votato i 5 Stelle ai tempi della legge Lorenzin che andava a favore dell'obbligo vaccinale ai caricatori dei bambini, degli elementari, dei bambini dell'asilo, e proprio in contrasto, perché all'epoca i 5 Stelle erano una Vax e quindi si fanno tradita, hanno fatto il contrario di quello che avevano sempre detto, eccetera. E tante persone che magari avevano votato i 5 Stelle ai tempi della Lorenzin per andare contro la Lorenzin, poi si sono ritrovati con questo obbrobrio qua, che è una cosa ben peggiore della Lorenzin. Perché la Lorenzina alla fine prevedeva solo una multa, in realtà con la Lorenzina il genitore, anche se non vaccinava il figlio poteva comunque andare a scuola se il genitore pagava una multa, una sanzione pecuniaria. Quindi se ogni anno il genitore pagava la sanzione pecuniaria il bambino andava a scuola lo stesso. Non era una cosa giusta, probabilmente non era giusta neanche quella, io ero contraria anche a quella. Però non era come adesso che si viene tolto il diritto al lavoro, il diritto di lavorare, era una Di cosa andare a prendere bambini a comunque, scuola, se non hai o che non puoi fatto. andare a prendere bambini a scuola, o che come adesso i ragazzi non potranno manco tornare a scuola con l'autobus perché vanno anche sui mezzi e quindi non potranno neanche prendere i mezzi per tornare a scuola con il treno, con l'autobus. Tanti che vanno a scuola fuori, che magari non hanno la scuola più dietro casa, cosa fanno? Che non possono prendere più gli autobus, non possono prendere più i treni, come ci vanno? A piedi? O in sella al cavallo, in sella al cammello? Non lo so come possono fare questa povera gente. Se non è discriminazione questa, più discriminazione di così, che impedisci ai ragazzi di tornare a casa a scuola, che impedisci ai ragazzi di andare a scuola, di esercitare il loro legittimo diritto allo studio, è una discriminazione che più palese di così non c'è, direi, o no? Certo. E ma secondo te quali sono i mezzi necessari da mettere in campo? Cioè, secondo te bisogna continuare con queste passeggiate oppure Ma bisogna... se in campo a questo punto sono altri. Le manifestazioni sono servite fin tanto che ci siamo contati, fin tanto che sono servite a capire che noi siamo tanti, che non siamo quattro gatti che dicono le televisioni, eccetera. Ora i mezzi da mettere in campo sono il boicottaggio del sistema, innanzitutto, anche se non abbiamo ancora i numeri per fare il boicottaggio del sistema, bisogna aumentare i numeri. Bisogna assolutamente cambiare i rapporti di forza. Quando avremo cambiato i rapporti di forza, per cui saremo non più noi un 20% e loro l'80%, ma un 50% noi e loro un 50% sì, ma meno determinato, perché loro sono meno determinati ovviamente, dal momento che stanno alla parte del potere e quindi non gli viene niente vantaggio, quindi sono meno determinati. Ecco, se riusciamo a convincere un 30% delle persone di passare dalla nostra parte, lì si potrebbe vincere, perché una volta cambiati i rapporti di forza e una volta creato un coordinamento, perché il problema nostro è che siamo troppo un movimento troppo spontaneo, come ho detto, troppo eterogeneo, formato da anime diverse, eccetera, che in parte è un vantaggio, anche i partigiani erano formati da anime diverse, dove l'unico obiettivo era combattere il fascismo, ma poi alla fine c'erano dentro cattolici, comunisti, liberali, repubblicani, tutti e di più, insomma, perché l'obiettivo era combattere il fascismo, quindi, come dicevo, anche lì le anime erano molto diverse, e quindi perché c'erano uniti per un obiettivo comune, e poi dice, dopo torneremo a litigare dopo. Ora in questo momento bisogna raggiungere l'obiettivo comune, che è l'abolizione del Green Pass in questo caso, cioè la dittatura tecnosanitaria in questo caso, abolizione della dittatura tecnosanitaria, abolizione del Green Pass, ritorno al 2019. E così come all'epoca l'obiettivo comune era l'abolizione del fascismo, quindi in entrambi i casi si esponeva come, quindi, come quindi, dittatura proprio. Quindi in entrambi i casi. In entrambi i casi l'obiettivo comune è l'abolizione del fascismo in quel caso, che è la dittatura, l'abolizione della dittatura tecnosanitaria in questo caso, che è una dittatura, anche se apparentemente non lo dice, ma non lo dice, ma lo è, quindi se lo è, lo è, punto e basta, è sbagliato non dirlo, quindi è una dittatura anche questa, come quella fascista, e per me non è meno grave la dittatura questa di quella fascista, e non è meno grave chi fa finta di combattere questa dittatura per metterci quella fascista, perché se stanno i fascisti in mezzo, quelli vanno esclusi dal movimento, nel movimento di lotta contro il sistema. Noi stiamo lottando contro una dittatura, che è la dittatura tecnosanitaria. Se noi, se tra quelli che lottano contro la dittatura tecnosanitaria ci sono in mezzo fascisti, eccetera, questa gente va esclusa dal movimento, perché questa gente vuole solo un'altra dittatura. Allora non ci serve un'altra dittatura, noi ci serve togliere le dittature per riprenderci la libertà, appunto. Quindi il concetto è abolizione della dittatura tecnosanitaria attuale. Abolizione del Green Pass e di qualsiasi forma di lascia passare. Abolizione di qualsiasi forma di obbligo vaccinale, perché il corpo è mio, decido io, perché l'autodeterminazione sul proprio corpo è un principio fondamentale che deve valere in ogni ambito. E detto ciò, abolizione dello stato di emergenza, ritorno per ora al 2019 con la possibilità ovviamente di migliorarlo, perché anche il 2019, come abbiamo detto, presentava delle lacune, dei difetti, e quindi poi si andrà man mano a migliorarlo, ma intanto torniamo a quello che era per poi poterlo migliorare in seguito. Quindi io direi questi 5 punti che ci dobbiamo porre. Come raggiungere questi 5 punti? Innanzitutto cambiare i rapporti di forza, aumentare la massa critica, spingere più gente dalla nostra parte. Quando ci sarà più gente alla nostra parte, più gente pronta a lottare, voi portate del sistema. L'unico modo per far trovare questo sistema è l'opposizione alla Gandhi, disobbedienza civile. Ma lo sai che Gandhi, per esempio, va bene, lui è famoso per la disobbedienza civile. La disobbedienza civile, però quando andavano a bloccare le sartorie, loro incendiavano anche le sartorie e i crumiri rimanevano dentro. Quindi è vero la non violenza, però anche i movimenti non violenti hanno preso sotto ventaglio delle pratiche in realtà violente. Io non lo sapevo che Gagna era stato violento, lo traccio come esempio. No, era per ragionare. Dico comunque, indipendentemente da questo, o da Mandela, da quello che è, comunque sia la questione la disobbedienza civile. Nel momento che noi diventiamo tanti, che abbiamo cambiato i rapporti di forza, perché ho detto il primo punto è cambiare i rapporti di forza a nostro favore. Mm-hmm. Una volta cambiati i rapporti di forza a nostro favore, il secondo punto è boicottare il sistema. Boicottare il sistema vuol dire fare disobbedienza civile, vuol dire fare sciopero generale, resistenza passiva, disobbedienza a qualsiasi strumento tipo Green Pass eccetera, quindi cessare di usare Green Pass eccetera per un tratto di tempo in maniera da mandare in vista il sistema, e poi appunto una volta diventati tanti ci vuole un attimo, perché se siamo pochi non riusciamo a fare niente, ma se diventiamo il 50% bastano anche una settimana che dici non uso più il lasciapassare per tutte le cose non necessarie e già fa cambiare il sistema a quel punto, o no? Certo. Penso che condividi con me, o no? No, certo. Il grosso problema è che spesso sul lavoro siamo da soli, no? E quindi il boicottaggio lo fai tu da solo, quindi sei molto ricattato. Infatti l'unico problema sul lavoro sarebbe convincere anche altre persone sul lavoro, però sul lavoro io al momento sto sola, quindi certo. Non riesco a convincere. Però vedi già, per esempio, anche parlare, no? Ragionare insieme, diffondere i nostri pensieri possono servire. No? O se fa un vero sciopero generale, si fa quello del sistema con un vero sciopero generale, e se si riprende il nostro mondo, che era quello che era prima, e si torna al mondo di 2-3 anni fa almeno, poi migliorandolo, ma intanto si torna al mondo di 2-3 anni fa, che è fondamentale, poi si potrà pensare a cosa fare per migliorarlo, ma prima di pensare a cosa fare per migliorarlo bisogna tornare al mondo di 2-3 anni fa. E poi questo, se poi non ce ne riusciamo neanche in questo modo, l'unica cosa è andare a fare l'ecovillaggio sulle fonti del Monte Spinti, ma io non è che sto da tipo l'ecovillaggio, francamente. Ma no, certo, anch'io, anche perché poi il resto del sistema va avanti, no? Forse sarei più d'accordo con quello che dicevi dell'altra volta, per esempio francese, no? Andare a fare l'ecovillaggio sul Monte Tobbio, voglio dire, alla fine ti estranei dal sistema, ti crea una realtà alternativa, ma non sarà mai completamente indipendente, perché l'autosufficienza del sistema non la raggiungerai mai completamente. Secondo me è impossibile, è impossibile raggiungere una completa autosufficienza. Perché deve essere un'autosufficienza alimentare, quello che coltivi, eccetera, un'autosufficienza energetica, l'energia che ricavi, eccetera, ma poi un'autosufficienza anche a livello sanitario, anche a livello di istruzione, eccetera. Creare una società parallela ed autonoma, per me la vedo ancora più difficile che vincere la guerra. Nel senso che vincere la guerra sarà molto difficile, ma creare una società parallela ed autonoma, divisa e alternativa e distaccata dal mondo normale che va allo sfascio e che continua ad andare allo sfascio, è forse ancora più difficile, ancora più utopistico rispetto a vincere la guerra. Certo. Quindi per me è più importante continuare a lottare, continuare a battersi per vincere questa guerra, piuttosto che andare nel loro villaggio sul Monte Tobbio alle fonti del Fidumno. E con questo concludiamo la nostra conversazione tra Gaetana e Mara. E avanti con la lotta. Grazie. Sull'onda della presa bene di Gaetana vi leggo anche un appello che ci hanno mandato i bibliotecari, anche loro presenti durante le proteste No Green Pass. Hanno infatti lanciato un nuovo appello per aprire le biblioteche a tutte le ragazze e i ragazzi, adesso ve lo leggo. Riaprire le biblioteche a tutte le ragazze e i ragazzi. cose che succedono realmente. Tre ragazzine tornano insieme da scuola. Sulla loro strada la biblioteca di quartiere, dove vorrebbero entrare per cercare dei libri da leggere. L'addetto all'accoglienza, sulla porta della biblioteca, dopo aver misurato loro la temperatura, chiede nell'ordine quanti anni hanno, se hanno con sé il Green Pass, se hanno con sé un documento da verificare la generalità. Con loro, loro reagiscono con molto imbarazzo. Solo due persone possono entrare, una resta fuori. Nell'accezione della lingua italiana che si può ritrovare in qualsiasi dizionario, questa è una discriminazione. Distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni. Dizionario Treccani. Noi pensiamo che questa discriminazione sia profondamente ingiusta per ragazze e ragazzi che si ritrovano tra loro senza limitazioni a scuola e nel loro tempo libero e senza problemi potrebbero anche entrare in libreria. Nel rispetto della Costituzione, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il manifesto UNESCO delle biblioteche pubbliche, nonché dei principi etici e deontologici della professione bibliotecaria, chiediamo la fine di questa discriminazione e di poter riaprire le biblioteche pubbliche a tutti i minori senza distinzioni, bibliotecarie e bibliotecari, contro ogni discriminazione, novembre 2021. Per scrivergli, bibliotechepertutti@gmail.com. A Malaradio non abbiamo mai dato troppo spazio ai sentimenti, che a volte sono considerati, almeno nel nostro mondo, ma credo anche nel mondo della gente normale, secondari. Secondari al lavoro, secondari alla lotta o secondari alla famiglia. Le cose devono sempre andare avanti in qualche modo e i nostri problemi sono un peso da evitare, da gestirsi da soli, un peso che non si può mettere sulle spalle degli altri, ma che invece devasta le nostre vite lo stesso, anche se li neghiamo. Quindi oggi voglio dare spazio a queste loro voci. Buon ascolto. Qui nel limbo il presente è particolarmente pesante ad affrontare, perché per gioco di parole è molto presente. Il passato e il futuro sono echistonati e sfibrati, che spesso ti fanno passare notti insonni e ti fanno innescare liti poco sensate. A giorni ti spaventano, a giorni ti fanno sognare. Le sensazioni sono intense e condividerle con gli altri è l'unica cosa bella di qui. In questa mia permanenza ho conosciuto due ragazze a cui auguro che riusciranno a uscire da questo posto e da questi posti, perché riescono a focalizzarsi ed esprimere i propri sentimenti e le proprie potenzialità, perché ne hanno tante. In particolare ho scoperto che hanno le buonissime doti canore e abbiamo registrato due canzoni, ora ve le faccio sentire. Piano 9 freestyle. In Adri Marte sul beat, fatti sto viaggio. Ecco, lo vedi nello sguardo, quel demone mi ha fatto innamorare e diventare un fottuto bastardo. In ogni pensiero che facevo sempre in ritardo, tardo. Scusa per ogni mio sbaglio, per ogni suo taglio, questa melodia è una baglia che fioriva dal mio spiraglio. Ritaglio ricordo prima che vada a repentaglio. Riempio un altro bagaglio per cessare quel travaglio, questa volta non sbaglio. Ogni istante, ogni momento, una lotta pugilato che leggo a stento. Non c'è consentimento, ho provato più birre che sentimenti. E se non mi senti, alza il volume della traccia. Questo beat ti mangia, ti mastica, poi ti sputa. Tu versi mi ancora ci puta, mentre vorrei dirti che tutto questo non mi aiuta. Che tutto questo non mi aiuta. Siamo dei signori sognatori, tutto quello che ci rimane, tutto quello che tu adori, metti gli amplificatori, gli amori, gli ammortizzatori per i dolori, ignorando gli sterdori creati da falsi attori. Siamo in una società materiale, non ci insegna più a lavorare, ma ad abbandonare, rimanendo capaci di abbaiare, incapaci di creare qualcosa di speciale. E non ti farà abbindolare, se tutto va a puttane, lascia cicatrizzare, ti voglio collare un affare che ti faccia affascinare, ci sarà da faticare, non arriveremo sull'altare, ma sulla fastellare, ma tutti comodo a sedere e comincio ad attaccare. Amo guardarti arrossare, come se il tuo sguardo sappia assemblare ciò che ho sempre voluto gettare. vacillare tra un auricolare, un borbottare di parole che tu non sei mai riuscito a bazzicare. Siamo in una realtà distorta, aperta a seguire sempre la strada più storta. Pongo la horta, chiudo il portone e la porta, poco ci importa. Era una piccola dama in pigiama che sognava di arrivare lontano. La strada non chiama, sa che per lei tirare fuori la lama, per ogni prosa richiamo. Per ogni prosa richiamo. Per ogni prosa richiamo. In questa etnia materiale che ci insegna solo ad abbandonare, incapaci di creare qualcosa di speciale, capaci solo ad abbaiare. Capaci solo ad abbaiare. Passiamo e ripassiamo sulle nostre vecchie orme come pattinatori artistici e proprio mentre leggevo un nuovo manoscritto un fortissimo déjà vu mi penetra nelle ossa. Ero già stato qui, un'altra vita fa. Lola Bunny on the beat. Se cerchi me, ci sono solo guai. Yeah. J-U-L-I-A, quando entro nel flow uccido slow. Pensi di fregarmi, tu fai tu mille volte. Strega bianca, la Giulia bianca, Giulia white. Se non vai a fanculo dove vai? Ho spazzato mezz'altro al giorno e ho raggiunto 1 milione e poi mi son tolta. Ho perso mio figlio solo in ospedale l'anno scorso come rimorso. Mi davano farmaci di schizofrenia e bipolarità. Quando sono iperattiva, tachicardia e infarto. Ho denunciato l'ospedale tutto paranormale. L'anno scorso ho perduto tutto e mi hanno fatto passare per pazza. Quando la pazza non sono io. E il mio ex mi ha tradito con trans, escort e bambine. Mi ha fatto provare la cocaina e il crack, psicosi. Mi ha pure picchiata e difamata. Sono finita in ospedale. E ho fatto un test di trattamento sanitario volontario. Dove mi hanno abusato, picchiata e legata. Sono stata assunta come psichiatra. Mi hanno mandato in villa negli ultimi 3 giorni li ho passati con lui. E ho capito che eravamo anime gemelle. Che nessuno ci può dividere dalle critiche chiacchiere ce ne sbattiamo. Sei il mio per sempre, ti amo. Sei il mio amore. Sei il mio ancora. E la mia ancora. Che senso ha la vita senza di te? Che sei il mio ancora, ancora. G-I-O, il I-O, il mio amore, sei il mio buon amore. Sei buono come il pane, mi difesa e sei il mio punto di riferimento. A me che nessuno mi ha mai fatto regalo. A me che bastava il tuo sorriso e non te ne sei mai andato. Medium come me, ti ho lasciato le mie carte. Nella speranza che tu guardi le carte e capisco che non ti risca. A te che sei mio amore è vero, solo vedetemi negli occhi. E capisco che sei tu la mia casa. Avremo un futuro, un figlio, che prenderà da te. Che sei il mio orario, io e il tuo regino. Conquisteremo il mondo insieme. Non sarò un anello che ci seguono insieme. Perché siamo destinati a stare insieme per sempre. Per tornare al tema lessico, vorrei darvi degli ultimi giusti suggerimenti o idee che mi fanno venire in mente la parola nonopiano. Nonopiano vuol dire isolamento, ma non cura. Nonopiano vuol dire contenimento e la rabbia non è contemplata. Nonopiano vuol dire traghettamento, ma a volte anche purtroppo destinazione. E se non è ancora qui, è ancora in un'altra struttura. E se non è lì, è dentro di noi. Ci sarebbero ancora, come dicevo prima, mille cose da dire. Anch'io oggi mi trovo a dover scoprire se il mio TSV diventerà TSO perché sono abbastanza smattata negli ultimi giorni per le regole assurde che ci sono qua dentro. E mi troverò a dover capire se posso uscire oppure andare in una nuova struttura dove però non sono sicura di riuscire a sopportare. Quindi sicuramente avrete modo di avere un mio nuovo resoconto. Vi dedico questa ultima canzone inserendo una nuova parola, casa, che per tutti vuol dire qualcosa oppure niente, che spero che tutti troveranno, ma so benissimo che molti non troveranno. Tra l'altro qua a Milano la casa per molti è un lusso e questa settimana una famiglia mia molto molto molto cara è stata sbattuta per strada nel mezzo dell'inverno e con l'inganno hanno aspettato che il padre andasse ad accompagnare la bambina a scuola e hanno cominciato a sgomberargli la casa. Quindi i miei saluti vanno tanto anche a loro. Il mio tono sarà stato un po' triste perché oggi non è che sono proprio di ottimo umore. Ma vi assicuro che uscita da qui la mia forza per lottare sarà solo triplicata. L'unica cosa che mi sento di aggiungere su questo concetto di casa è che sicuramente per me forse non sarà un luogo fisico, ma lo ritrovo nelle persone che mi sono state vicine fino adesso, sono state preziosissime. E vedendo quello che hanno gli altri, so che sono una cosa veramente rara. Grazie. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close. Look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close. The tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My paths would be made straight. Home again, home. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, this talk will make you cool. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. E dopo tutta questa presa male, vi ricordiamo invece che ci sarà una bellissima occasione il 19 dicembre, ovvero una cena di Mala Radio, dove finalmente potrete venire a conoscerci e vi spiegheremo anche come, se volete, partecipare. Ci saranno grandi sorprese, grandi pasti, grandi banchetti, grandi bevute, ma anche un collegamento con la Sardegna, che quel giorno farà una mobilitazione contro le basi militari. Quindi mi raccomando, segnatevi la data. Vi ricordo inoltre i contatti per scriverci. Vi potete iscrivere al canale Telegram di Mala Radio, su cui verrete tenuti aggiornati su tutte le nuove puntate che faremo. Oppure abbiamo il nostro Facebook Mala Radio Milano, oppure la nostra mail malaradio@autistici.org. Anche questa puntata verrà caricata come podcast sul nostro blog malaradio.noblogs.org. Ciao, a presto.